Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, non è una sorpresa la protesta messa in atto dai sindaci del Nord, che hanno restituito la fascia tricolore quale espressione di non condivisione delle restrizioni finanziarie cui sono state oggetto le loro amministrazioni comunali. Ma a ben osservare, la manifestazione dimostra una scarsa capacità di adeguamento alla situazione socio-economica del momento, alla necessità di fare squadra, dimostrando di essere in grado, seppur con sacrificio e pena, di far pesare il meno possibile le costrizioni sui cittadini, evitando le svariate spese inutili sostenute dalle amministrazioni comunali. Oggi siamo tutti soggetti a questo momento critico dell'economia locale e mondiale. In particolare le famiglie sono tenute a una gestione più oculata, perché vedono ridotti i loro introiti e di conseguenza devono tagliare quelle spese che, pur utili, non possono più essere sostenute. Questo stesso comportamento dovrebbe essere adottato da chi amministra la spesa pubblica comunale. Pare che questi sindaci non abbiano presente il richiamo fatto l'anno scorso dal nostro Presidente della Repubblica, che invitava gli amministratori, quali che fossero, a utilizzare il metodo di revisione integrale delle spese, quello che viene definito zero-based budgeting, metodo in uso fin dagli anni 60 nelle imprese private ben gestite, che contrasta a quello detto a pioggia, che invece mantiene vive tutte le voci di spesa operando su tutte queste solo un taglio più o meno proporzionale alla ridotta disponibilità finanziaria. Ora, se la protesta dei sindaci è puramente politica, è squalificante, poiché ogni buon padre di famiglia che vive le costrizioni dell'aumento dei costi, della cassa integrazione o peggio ancora della disoccupazione, non può non criticare l'insensatezza di una tale protesta. Se questa invece è fatta per giustificare uno sforamento dei budget attribuiti, la cosa è ben peggiore, poiché dimostra l'incapacità di saper gestire le situazioni critiche. Chi non dovesse rendersi responsabile e capace di una gestione sacrificata, in famiglia metterebbe a rischio la stessa vita familiare. In un'impresa privata invece verrebbe giustamente accantonato, se non addirittura dismesso. Ezio. Gentile Ezio, le sue argomentazioni sono indubbiamente ragionevoli, ma mi sento di spendere questa volta una parola a favore dei sindaci lombardi e anche della loro protesta. È vero che tutti, soprattutto i pubblici amministratori, devono avere come obiettivo una gestione oculata delle risorse che hanno a disposizione. Ma è altrettanto vero che i sindaci chiedono soprattutto che i patti vengano rispettati e, per esempio, che i soldi che il governo ha tolto ai comuni con l'abolizione dell'ICI vengano, come promesso, restituiti. Chiedono inoltre una gestione più flessibile di quel patto di stabilità interno che ora limita anche l'utilizzo dei finanziamenti già disponibili. Mi sembra che sia in fondo un atto di coraggio, una protesta dei sindaci in gran parte di centrodestra e soprattutto della Lega per richiamare ai propri impegni un governo di centrodestra, in cui la Lega occupa posti importanti come lo stesso Ministero dell'Interno. Comunque, a questa protesta hanno partecipato o dato l'adesione anche esponenti di centrosinistra. Peraltro, per concludere, se vogliamo guardare la cattiva amministrazione dei comuni, mi sembra che gli esempi vadano cercati più a sud. Magari a Catania, dove l'ex sindaco e la giunta di centrodestra sono stati rinviati a giudizio nei mesi scorsi per le irregolarità nel bilancio comunale. Per quale motivo la pillola abortiva dovrebbe deresponsabilizzare, come si sente dire? Qual è la differenza con l'aborto chirurgico rispetto alla responsabilità? L'unica differenza che vedo è sul piano degli effetti fisiologici delle due metodologie. L'intervento chirurgico viene considerato fisicamente più doloroso, mentre la RU486 viene considerata fisicamente meno gravosa. Allora, per ripristinare la responsabilità, dovremmo forse pareggiare il conseguente dolore? Una mazzata responsabilizzatrice sulla testa di chi sceglie un metodo considerato troppo indolore, e le due metodologie si equivalgono. Angelo. Ma chi l'ha detto che abortire con l'RU486 non sia una scelta da prendere con leggerezza? Non è che siamo tutti responsabili, basta guardarsi attorno. Ho l'impressione che il numero delle donne che sono ricorse a più di un aborto sia in netta salita. Questo vorrebbe dire che gli irresponsabili sono in crescita. Non era questo lo spirito della legge, ma l'esatto contrario. Alex. La paziente di Bari, descritta come paziente zero per l'utilizzo della pillola abortiva RU486, è in realtà una bufala. In quanto in Emilia-Romagna questa pillola è regolarmente somministrata già dal 2006, secondo protocolli clinici ben definiti e collaudati. Allora, di che cosa stiamo parlando? Domenico. Il bisogno di comunicare dell'uomo lo ha spinto a sviluppare un linguaggio più complesso rispetto agli altri animali. La stessa necessità lo ha spinto poi all'espressione grafica, partendo dai disegni per arrivare all'attuale scrittura. È stato ancora il bisogno di comunicare che ha portato l'uomo all'invenzione di mezzi di comunicazione sempre più veloci ed efficienti. A partire dal telegrafo, le telecomunicazioni hanno continuato ad evolversi fino ad arrivare ai giorni nostri. Negli ultimi decenni, in particolare, le innovazioni tecnologiche ci hanno aperto il mondo virtuale di Internet, con le email, le chat, i blog, i social network, eccetera. Tutto questo ci permette di comunicare in tempo quasi reale da una parte all'altra del mondo, usando solamente un computer collegato alla rete. Questa tecnologia però è basata su immagini e testi proiettati sullo schermo e non tiene conto di persone con disabilità visive che hanno difficoltà a muoversi in questa nuova realtà. Negli anni Ottanta il sistema operativo MS-DOS era il più diffuso e i primi ausili per ciechi e ipovedenti non avevano difficoltà a sintetizzare vocalmente ciò che appariva sullo schermo perché il sistema era principalmente testuale. La successiva diffusione di Windows 97, sistema operativo con una grafica più complessa, ha creato nuove sfide alla tecnologia degli ausili. Infatti, in quel momento i programmi sono diventati sempre più complessi e meno testuali, fino ad arrivare a Internet. Le pagine web, ad esempio, per essere esplorate velocemente richiedono l'individuazione a colpo d'occhio dell'informazione che si cercano, dei link e di tutto ciò che va scartato, ad esempio i pop-up. Questo è ovviamente impossibile per un non vedente e difficoltoso per un ipovedente, anche se utilizzano gli ausili. Infatti, la sintesi vocale, detta JAVS, quando scansiona un sito in cui è presente un'immagine, un video, un link o una pubblicità, si inceppa e interrompe la codificazione della pagina. Allo stesso modo, un ausilio ingrandente, come Zoom Text, non permette una visione globale della pagina, date le limitazioni dello schermo, e perde il focus quando incontra un pop-up. Nonostante questi problemi, ci sono ausili che permettono a un cieco o a un ipovedente di comunicare con programmi come MSN, Skype, Facebook, eccetera. Un altro ausilio per ciechi è la barra Braille, che si collega al computer e sporge da sotto la tastiera e riproduce in Braille ciò che l'individuo sta scrivendo sulla riga. Questo permette alle persone non vedenti di essere autonome, ma richiede l'apprendimento del Braille a 8 punti invece dei canonici 6. Come si è visto, questi ausili, per quanto utili, non sono del tutto funzionali perché richiederebbero maggiori accortezze da parte dei web designer. Inoltre, c'è una differenza notevole tra la velocità di sviluppo della tecnologia informatica e i tempi con cui si innovano gli ausili. Questo significa che i programmi di aiuto sono troppo obsoleti per i nuovi sistemi operativi. L'ostacolo più grande alla diffusione degli ausili è di tipo economico. I prezzi risultano ancora proibitivi per molte persone non vedenti. Nicolas, studente maturando, ipovedente. Vent'anni fa feci parte di un'organizzazione ARCI di Milano che allestì una mostra di writer e concesse a una quarantina di loro di esprimersi sui muri vicini al cavalcavia Monte Ceneri di Milano. Per evitare di imbrattare i muri, costruimmo dei telai di legno sui quali vennero applicate le tele. Ai writer furono rimborsati i costi delle bombolette. Arte o non arte, era previsto che la mostra durasse alcuni giorni, ma durante la prima notte furono rubate una decina di tele e così gli stessi writer finirono i lavori e si portarono via le loro opere. Altri scrissero sui muri. Forse alcune opere sono ancora lì. Stefano. Vorrei fare una considerazione sul caso Bross, cioè il noto graffitaro sotto giudizio a Milano, e sui fiumi di articoli apparsi sui giornali. Dunque, un tizio viene accusato di occupare abusivamente la proprietà altrui e commettere reati. E i giornali cosa fanno? Lo considerano forse per quello che è? Cioè un delinquente? No. Ne fanno un caso da discutere. O addirittura lo trasformano in un paladino della nuova arte o in un perseguitato politico. Siamo veramente al delirio. Un'illustrazione perfetta di quella che è stata definita dittatura del relativismo. Angelo. Questo Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.